Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, quando il re Sedecia inviò a lui Pascur, figlio di Malchia, e il sacerdote Sofonia, figlio di Maasia, il gran sacerdote, a dirgli: «Consulta per favore per noi il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, fa guerra contro di noi. Forse il Signore agirà verso di noi in conformità ai suoi prodigi, ed egli si allontanerà da noi». Geremia rispose loro: «Così direte a Sedecia: così dice il Signore, Dio d'Israele: eccomi, io farò indietreggiare gli strumenti di guerra che sono nelle vostre mani, con i quali combattete il re di Babilonia e i Caldei che vi stanno combattendo fuori le mura, e li radunerò in mezzo a questa città. Io poi combatterò contro di voi con mano stesa e con braccio robusto, con ira, con furore e indignazione grande. Percuoterò gli abitanti di questa città, sia gli uomini che le bestie, con grande peste. Morranno. Dopo ciò, oracolo del Signore, consegnerò Sedecia, re di Giuda, e i suoi ministri, e tutto il popolo, e quelli che in questa città scampano alla peste, alla spada e alla fame, in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, in potere dei loro nemici e in potere di coloro che cercano la loro vita. Egli li percuoterà a fil di spada, non li risparmierà, non perdonerà, né avrà misericordia di loro. A questo popolo poi dirai: così dice il Signore, eccomi, io metterò dinanzi a voi la strada della vita e la strada della morte. Chi resterà in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Ma chi esce e si consegnerà ai Caldei che vi stanno assediando, vivrà ed avrà come suo bottino la propria vita. Sì, io ho fissato la mia faccia contro questa città per la sventura e non per la felicità. Oracolo del Signore. Sarà consegnata in potere del re di Babilonia, che l'incendierà con il fuoco. Alla casa del re di Giuda: ascoltate la parola del Signore, o casa di Davide. Così dice il Signore: giudicate giustamente ogni mattino e liberate il derubato dalla mano dell'oppressore, affinché non esca qual fuoco l'ira mia e arda e non trovi chi l'estingua a motivo della malvagità delle vostre azioni. Eccomi a te, o abitante della valle, o rupe nella pianura. Oracolo del Signore. Voi dite: chi scenderà contro di noi e chi entrerà nelle nostre dimore? Io vi farò visita secondo il frutto delle vostre azioni, oracolo del Signore, e accenderò un fuoco alla sua foresta e divorerà tutti i suoi dintorni.